Pubblicata sulla rivista contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia di Luca Giambonino dal titolo La poesia. Sempre a lamentarsi del tempo, e se tempo non è, è politica. Cari concittadini miei, aprite il cuore alla poesia ad un raggio di sole o alla fresca brezza del mattino. Siamo dal verde circondati eppur nemmeno lo notiamo, lo diamo per scontato. Ascoltami, ascoltati. Fermati a riflettere sul bello, sulla calma, sulla serenità nell'animo tuo. Sentirai qualcosa di nuovo, e madre poesia che allieta il cuor tuo come da tempo allieta il mio.